Come un viandante sperduto, chiedo, Signore, un conforto, conforto, ti prego il tuo aiuto, ti prego il tuo aiuto, per il mio ultimo porto, finché la notte non cada. Dammi, dammi, dammi, dammi. Dammi, Signore, dammi la strada, io che ho perduto ogni cosa. Dammi, Signore, dammi la strada, ascolta questo mio grido, il mio amarissimo pianto, devo tentare ritorno, tanto ma occorre che vada prima. Tu che del cuore profondo tutti i misteri conosci, misteri conosci, la mia preghiera ascolta, e questa grazia concedi, finché la notte non dammi, dammi, dammi, dammi, dammi. Dammi, Signore, dammi la forza di fare gli ultimi passi. Dammi, Signore, forza, fa che raggiunga la porta, dove mi aspetta la sposa, che ha tutto il pianto negli occhi, tutto lo schianto nel cuore, prima che scenda. Prima che scenda, prima che scenda.